Buongiorno, il programma prevede di parlare di diritti e presunzioni di persone ridotte a nomi, del come cercano casa le multinazionali e dell'alito della lettura.